in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Siamo tornati alla consueta programmazione, quindi la domenica appunto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani italiani. E cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che si concentra su un tema che sarà sempre più di attualità, perché il 27 settembre, cioè martedì, ci sarà un incontro che viene definito decisivo tra governi e sindacati sulla questione delle pensioni, in particolare delle pensioni anticipate. Si allarga la platea per l'anticipo a costo zero, questo è il titolo principale del Sole 24 Ore. In prima pagina anche molti commenti, sia alle questioni politiche, quindi con la convention del Movimento 5 Stelle che continuerà oggi a Palermo, e poi anche i soliti appuntamenti della domenica, come quello con la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che si concentra su un titolo quotato. Questa settimana è Enel, e poi trovate tutto a pagina 18. Il Corriere della Sera, come altri giornali, sceglie di aprire sulla kermesse, non si sa bene come chiamarlo, perché loro non vogliono essere definiti un partito, ma bensì un movimento. Quindi questo incontro che c'è stato a Palermo, che appunto si concluderà oggi, Grillo torna a capo dei 5 Stelle. Sapete che questa è un po' la notizia, dopo aver detto mesi fa che avrebbe fatto un passo non indietro ma di lato, lasciando un po' la scena al direttorio composto da Luigi Di Maio, Di Battista e Fico. In realtà adesso Grillo ha detto a chiare lettere: tornerò a fare il capo politico. C'è stato anche un altro debutto, quello di Davide Casaleggio, che ha per la prima volta, un uomo sicuramente discreto e molto timido, ha parlato da uno dal palco, ed è stata la prima volta che appunto si è rivolto direttamente ai simpatizzanti, ai sostenitori del Movimento 5 Stelle riuniti in una piazza. Questa presa di posizione di Grillo, che ha detto appunto torno a fare il capo politico, viene definita da Massimo Franco, in un articolo che inizia in copertina e continua a pagina 2, un'altra rivoluzione dall'alto. Si è molto criticato il Movimento 5 Stelle in queste settimane di crisi, legate soprattutto alla vicenda della giunta romana, dicendo che non esiste una vera struttura gerarchica e che possa poi anche prendere delle decisioni con una struttura gerarchica, ma che sia anche allo stesso tempo democratica all'interno del partito. E tutti invocavano in qualche modo un cambiamento, tutti insomma i critici, ma forse anche tanti esponenti del Movimento 5 Stelle, un cambiamento di questa governance. Secondo appunto Massimo Franco, il direttorio, come abbiamo detto prima, fatto da Di Maio, Di Battista e Fico, è stato ridimensionato, però si tratta comunque di una rivoluzione dall'alto e non dal basso, perché Grillo dice: torno a essere io quello che decide, il capo supremo. La Repubblica ha un titolo diverso sulla questione economica, perché un altro appuntamento di cui ci occuperemo molto nei prossimi giorni è quello con la legge di stabilità o anche DEF. Repubblica anticipa quello che potrebbe essere il piano del governo con un PIL all'1%, e sappiamo che in realtà non siamo così sicuri che la crescita del PIL raggiunga l'1%, potrebbe essere un po' minore, però le stime sono fatte su questa cifra, 1%, è già previsto un confronto con Bruxelles sulla flessibilità. La fotonotizia è dedicata a Grillo. Grillo si riprende il movimento, il capo sono soltanto io, questo è il virgolettato scelto per spiegare che cosa è successo, che cosa è stato annunciato a Palermo. Vi ricordo che con la Repubblica, come da quando è stato lanciato il nuovo Espresso, in edicola c'è anche l'Espresso, che una volta usciva di venerdì, adesso esce la domenica, appunto abbinato a Repubblica, e la copertina, tra l'altro, a seconda di quella che vi capita, è di colori diversi. Ricorda, è un ritratto non fatto da Andy Warhol ma da un suo diciamo emulatore, ricorda quindi appunto quei disegni di Andy Warhol. Sapete che Andy Warhol prendeva una Polaroid, poi ai tratti della fotografia aggiungeva dei colori, ne faceva quasi un'illustrazione anziché un ritratto fotografico. In questo caso il soggetto è Berlusconi, e ogni Espresso ha un colore diverso di questa copertina. Quella che ho in mano io ha lo sfondo giallo, il titolo è Carissimo Nemico, è un articolo di Ezio Mauro, ex direttore della Repubblica e ora editorialista della Repubblica e quindi anche dell'Espresso, fanno parte dello stesso gruppo, Silvio Berlusconi, 80 anni il 29 settembre, era il cavaliere, oggi è fuori gioco. Questo è il titolo, un po' il sommario un po' perentorio dell'articolo di Ezio Mauro, come la sinistra. È tempo di porre l'undicesima domanda. Il riferimento è alle 10 domande che Giuseppe D'Avanzo, ai tempi dello scandalo Ruby, pose a Berlusconi tramite il suo giornale che è La Repubblica. L'undicesima domanda, che è il titolo dell'articolo che poi trovate dalle pagine 16 alle alla pagina, è abbastanza lungo, alla pagina 21 della Repubblica. Quest'undicesima domanda Ezio Mauro ce la fa un po' soffrire, la mette alla fine del suo articolo. L'undicesima domanda è: cavaliere, virgola, ne valeva la pena? Ne valeva la pena naturalmente di scendere in politica e passare, insomma, gli ultimi, diciamo, 30 anni della sua vita a fare politica e anche a, come sappiamo, anche ad affrontare tutti i problemi giudiziari che ha avuto. Questo è un po' il senso dell'articolo di Ezio Mauro e di questa famosa undicesima domanda. Anche La Stampa, invece, al contrario di Repubblica, e come il Corriere, titola su Grillo. Grillo si riprende i 5 Stelle, il capo sono di nuovo io. Secondo Federico Geremicca, che fa il commento di questa vicenda, che inizia in copertina e poi continua a pagina 21, è di fatto una mozione di sfiducia al direttorio. E poi c'è anche un'intervista a Fico, la trovate poi a pagina 3, e il titolo scelto per l'intervista è: ci sono troppi personalismi. Anche Grillo, del resto, ha ammesso che ci sono stati degli errori, non suoi naturalmente, sempre degli altri, per esempio appunto degli esponenti del direttorio. La fotonotizia è dedicata, prende spunto da una denuncia fatta da Save the Children, che è una delle più importanti organizzazioni non governative che si occupano di aiutare tutti i bambini che per i motivi più diversi sono in difficoltà nel mondo. E questa la foto è scattata in Yemen, perché c'è un'emergenza anche in Yemen, una di quelle emergenze di cui si parla poco, tanto che il titolo della fotonotizia è: guerra e fame, i bimbi perduti dello Yemen, 370.000 bambini senza cibo. E poi naturalmente c'è la vicenda di Aleppo in Siria, dove, come abbiamo sentito anche nei telegiornali, da ieri manca l'acqua. Il Messaggero, come Stampa e Corriere, titola su Grillo: crisi Movimento 5 Stelle, il soccorso di Grillo. E secondo il Messaggero, il comico è costretto a riprendersi il movimento diviso. Il capo politico sono io a tempo pieno. E poi, come abbiamo detto, il debutto di Casaleggio Junior. E qui c'è anche un accenno a un intervento che non è stato ovviamente a Palermo, ma di Renzi, che ieri è tornato sulla questione delle Olimpiadi, attaccando la Raggi, dicendo: il dire di no ai giochi che c'è un pericolo troppo alto di infiltrazioni e di ruberie è incapacità, ha detto Raggi, ha sbagliato mestiere, perché i politici devono anche rischiare, e naturalmente con le grandi opere sì, effettivamente rischiano molto. La fotonotizia però è dedicata al fatto di cronaca di ieri, con questo crollo di un palazzo in via della Farnesina. Era stato parzialmente evacuato dopo un allarme, parzialmente evacuato per ordine dei vigili del fuoco dopo un allarme nel tardo pomeriggio. In realtà nella notte poi è stato totalmente evacuato grazie ad alcuni inquilini che hanno sentito degli scricchiolii che li hanno messi in allarme. A quel punto non ci sono poi state vittime, ma proprio perché l'evacuazione totale è stata sollecitata da alcuni inquilini. Avvenire titola sulla crisi di Aleppo: Aleppo presa per sete, 2 milioni senza più acqua nel feroce assedio, bombe sui ribelli, ancora decine di vittime civili. E poi la fotonotizia, perché ieri il Papa ha incontrato i familiari delle vittime dell'attentato di Nizza del 14 luglio scorso, e c'è la foto del Papa che abbraccia una bambina. Il virgolettato è: non l'odio contro gli assalti del male, quindi l'idea appunto di non reagire con l'odio all'odio. Sul Secolo XIX la fotonotizia è dedicata a Libereso Guglielmi, un nome forse sconosciuto ai più. Era un botanico di Sanremo, aveva 91 anni, da qui appunto Sanremo, perciò sulla prima pagina del Secolo XIX, che è il giornale di Genova. E questo giardiniere botanico si dice che avesse ispirato il libro Il giardiniere di Italo Calvino, che a sua volta aveva radici liguri, e quindi l'articolo di Giuseppe Giuseppe Conti, il filo verde tra Italo e il giardiniere. C'è questa, una fotografia di questo botanico con questa stupenda barba bianca, è appunto una vita vissuta per le piante, per i fiori. Il giornale, le 25 bugie sul referendum truffa, quindi un duro attacco al referendum sulla riforma costituzionale. E poi anche altre notizie che vedremo subito dopo la pausa, e ho il tempo giusto per segnalarvi il titolo di Libero, che anche in questo caso è dedicato a Grillo. Grillo scende in campo, comando io. E c'è una foto di Grillo con gli occhiali scuri che fa il segno del saluto militare. Questa è la prima pagina di Libero. Ci fermiamo un attimo per una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo. Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, io ho detto di Trebi Meteo a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ci attende una giornata di domenica di bel tempo prevalente su gran parte d'Italia in compagnia dell'anticiclone subtropicale che terrà ben lontane le piovose perturbazioni. Giornata tranquilla dal punto di vista meteo su molte regioni con ampie schiarite e clima gradevole. Valori termici del pomeriggio tutto sommato piacevoli con punte fino a 24-26 gradi sulle città di pianura. Da segnalare invece dell'instabilità tra Sicilia, Sardegna e Calabria con qualche acquazzone temporale anche di forte intensità. Tempo buono anche d'inizio della prossima settimana, sempre in compagnia dell'anticiclone. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app di trebimeteo.com. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulla prima pagina del giornale di Libero, e da quella di Libero volevo segnalare un articolo di Antonio Socci, che oggi non se la prende col Papa ma con Jovanotti, e il titolo è Se Jovanotti è un letterato, siamo davvero alla frutta, l'occhiello tramonto occidentale. Vi leggo la prima parte. Non è facile convincere i giovani che è necessario studiare sodo, imparare, sudare sui libri, fare master e tirocini sottopagati, quando poi nelle università italiane non ci sono spazi, e così nei centri di ricerca, ed è difficilissimo inserirsi nelle corporazioni professionali dei propri sogni, che molti vanno a inseguire all'estero. Per capire qual è la considerazione, e continua a pagina 23, del lavoro intellettuale in Italia, oggi forse basta un flash. E qui si viene a parlare di Jovanotti, tirato in ballo per spiegare la fuga dei cervelli. Un piccolo episodio che mi ha colpito in questi giorni. Il magazine culturale del Corriere della Sera, che si chiama La Lettura, questa settimana si apre con quattro paginone, quattro dedicate a Jovanotti. E in effetti, ho guardato subito la lettura, che poi normalmente citiamo alla fine della rassegna. La copertina è dedicata al fotografo Carlo Bavagnoli, e poi ci sono quattro pagine in cui Sandro Veronesi, che è uno dei più importanti scrittori contemporanei italiani, conversa con Lorenzo Jovanotti. Un po' il pretesto è che il 27 settembre Jovanotti compirà 50 anni, e il titolo Avere 50 anni non era previsto, però adesso, ed è una bella chiacchierata. Jovanotti, sappiamo, ha fatto un lunghissimo percorso artistico anche nella sua vita, ma a Socci non piace, quindi non gli piace questa celebrazione. Dice che una volta sul Corriere della Sera c'erano sulla terza pagina, cioè quella della cultura del Corriere della Sera, c'erano firme ben più importanti. Però, per un caso di serendipity, cioè quando si cerca qualcosa, si trova qualcosa senza averlo cercato, a questa pagina 23 di Libero c'è anche una segnalazione che in qualche modo ci riguarda e che quindi vi faccio, perché chi abita vicino a Trieste, a Porto Piccolo Sistiana, scopro appunto da Libero, fino al 2 ottobre al Volant Art Space potrà vedere la mostra Pretesti, che è una mostra di opere fatte da Alberto Rioli, che è il nostro del Sole 24 Ore vice direttore, e sono quadri molto interessanti. Qui a Milano li hanno esposti alla Galleria Iannone. Sono comunque ispirati alla parola, sono dei collage dove ci sono anche pezzi di giornale, sono appunto un modo per mostrare come in Alberto convivono queste due anime, quella dell'artista e quella del giornalista. Ci tenevo a segnalarlo perché appunto è anche, vi dà anche una, così, un indizio in più su chi c'è dietro la firma che leggete spesso sul giornale. Torniamo alle prime pagine e guardiamo La Verità, che è il nuovissimo quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, che come sappiamo ha lasciato Libero per fondare questo quotidiano, portandosi dietro anche tanti giornalisti che lavoravano con lui a Libero, tanti editorialisti come Giampaolo Pansa, che infatti è in prima pagina anche oggi, Stefano Lorenzetto, famoso per le sue interviste, e anche il nostro Alessandro Milan è un collaboratore della Verità. Il primo numero è uscito lunedì e oggi il titolo è: I deputati siciliani non pagano le tasse, un po' una notizia da mani sul volante, per citare Alessandro. Ben 77 dei 90 parlamentari dell'isola sono indebitati con il fisco, anche per centinaia di migliaia di euro. Non sono da meno i presidenti della regione, da quello in carica ai predecessori. Invece di saldare, minacciano di licenziare l'esattore. Una inchiesta di Mario Giordano che trovate poi a pagina 3. L'Unità titola su Grillo con un titolo molto forte, giudicate voi se è giustificato o no, per me no, che è Il profeta dell'odio. E il profeta dell'odio sarebbe appunto Beppe Grillo, che fomenta l'intolleranza per Renzi e giornalisti. Secondo me un conto è l'intolleranza, un conto è l'odio, ma insomma l'Unità ha scelto questo titolo. La fotonotizia però è dedicata alla tragedia di Aleppo, con un bambino che beve da una pozzanghera, e il titolo è La sete di Aleppo. 2 milioni di persone senza acqua, allarme epidemie, continuano i bombardamenti, diplomazia in stallo. Il manifesto guida a sinistra, e qui c'è un gioco di parole, perché come sapete nel Regno Unito appunto la guida è a sinistra e non a destra. La notizia viene proprio dal Regno Unito ed è quella che Jeremy Corbyn, segretario del Labour, che era stato sfiduciato dopo la Brexit dai suoi deputati, in realtà ieri alle elezioni del Labour, appunto del partito della sinistra, è stato eletto praticamente con un plebiscito. La cosa è sembrata strana, però in realtà forse bisognerebbe ricordare che poi alle elezioni politiche, quelle stravinte da Cameron, che poi in realtà si è dimesso sempre a causa dell'esito del referendum sulla Brexit, e Corbyn era riuscito a far risalire il Labour nei sondaggi, quindi forse non è così strano che la base del partito lo abbia poi al congresso rieletto. Il manifesto è anche l'unico giornale che mette in prima pagina il veto che Obama ha messo. Il presidente degli Stati Uniti ha questo potere, cioè le leggi le fa il Parlamento come in ogni paese, però lui può mettere poi un veto, ed è un veto molto diverso da quello che è il parere che per esempio dà il nostro Presidente della Repubblica, perché è un sistema democratico organizzato in un modo diverso, con più quelli che gli americani chiamano check and balances, cioè per cercare di bilanciare, e quindi il presidente ha questo potere, la legge viene rimandata, poi non può porre un secondo veto, però vedremo come andrà a finire. Il veto che ha messo Obama è alla legge che permette ai familiari delle vittime dell'11 settembre di fare causa all'Arabia Saudita. Il Fatto Quotidiano, anche qui un titolo diverso, frutto di un'inchiesta del giornale, che si chiama, il titolo è Sicurezza, i tagli di autostrade hanno ucciso i 40 sul pullman. Il riferimento è alla strage che c'era stata ad Avellino il 28 luglio del 2013, che fu il più grave incidente stradale di sempre in Italia, e in questa inchiesta, che trovate alle pagine 2 e 3, il Fatto dimostra come magari non ci sia un nesso diretto, però comunque come autostrade, le autostrade che gestisce appunto la maggior parte delle autostrade italiane, abbia tagliato molto negli ultimi anni sulla manutenzione. In quel caso, per esempio, scoprimo che i guardrail di quel tratto dove ci fu l'incidente erano marci. La Gazzetta Sportiva naturalmente titola sugli anticipi di ieri, quindi Juve tacco 15, prova opaca, ma a Palermo arrivano i 3 punti, quindi la vittoria del Palermo, e poi naturalmente anche la vittoria del Napoli, e quello qualche così previsione su quello che poi potrebbe succedere oggi con le altre partite che sono in programma oggi. Andiamo nelle pagine interne in questi pochi minuti prima della pausa per il traffico. Vi segnalo dal Sole 24 Ore un'inchiesta di Moria Longo sulle banche. Può sembrare un tema tecnico, ma in realtà sappiamo quanto il tema delle banche incida poi su tutti noi, perché credo che tutti in Italia abbiamo un conto bancario, quindi sì, ci sono cose che passano sopra la nostra testa, come in questo caso le fusioni tra grandi istituti, ma il sistema bancario nel suo complesso, di come si sta evolvendo e con i tagli che probabilmente potrebbero arrivare, tagli dei costi per le banche e quindi anche tagli del personale, è un tema che secondo me va comunque seguito, qualsiasi ruolo si abbia nell'economia, da cittadino, piccolo risparmiatore o appunto da protagonista della finanza. Il titolo dell'inchiesta è Fusioni più che dimezzate rispetto al 2007. Nel 2016 sono state realizzate solo 65 operazioni, nel 2007 furono 160. E sapete che il tema delle fusioni tra banche per creare istituti che abbiano una forza maggiore sul mercato italiano ma anche all'estero è uno dei temi che viene costantemente evocato quando si parla di riformare, cambiare, migliorare il sistema bancario, non solo quello italiano ma in generale i sistemi bancari europei. A proposito di cambiamenti e di cose che andrebbero cambiate, a pagina 23 vi segnalo una pagina intera a cura di Giulio Tremonti, che è stato ministro dell'economia e delle finanze, ma soprattutto è uno dei più importanti fiscalisti italiani, è così il suo studio. Il titolo è Il fischio vecchio di fronte a internet. Lo sviluppo dell'economia immateriale ha fatto emergere nuove repubbliche digitali a fronte degli stati nazione. Una pagina intera che esamina proprio come si sia evoluto il fisco nei secoli e come adesso avrebbe bisogno, non da adesso ma praticamente da quando appunto c'è stata la rivoluzione di internet, di un ulteriore cambiamento. E Giulio Tremonti è molto attivo oggi, è molto difficile, ve lo dico da persona che lavora all'interno di un giornale, capire qual è stato poi il tempo, la scelta dell'uscita, perché a pagina 15 del Corriere troviamo un'intervista a Giulio Tremonti, magari insomma non era una cosa programmata che uscisse tutto oggi. In ogni caso Tommaso Labate in questa intervista chiede a Tremonti anche del referendum costituzionale. Lunedì dovremmo finalmente sapere quando si andrà a votare, se alla fine di novembre o all'inizio di dicembre. Il titolo dell'intervista: vinca il no, quindi Tremonti si schiera per il no alla riforma costituzionale, poi si metta mano alla riforma elettorale con la reintroduzione del proporzionale e poi si riscriva insieme la carta, cioè la Costituzione. Quel sistema, il sistema vecchio secondo appunto il proporzionale, secondo Tremonti dava stabilità, mentre questa riforma che viene spacciata come semplificatrice in realtà complica. Una segnalazione visto che proprio in questi giorni sancire il primo mese dal terremoto che ha colpito il centro Italia, si stanno già facendo un po' di bilancio, comunque si cerca di tenere l'attenzione alta su come procede la ricostruzione, la messa in sicurezza degli edifici. E ieri, a proposito di quello che è successo appunto un mese fa nel centro Italia, c'è stato la premiazione di tutti i cani che hanno aiutato a salvare le persone che erano ancora sotto le macerie o a individuare le persone che erano sotto le macerie senza vita. Artù, Giove, e gli altri, il premio ai cani dell'emergenza. Ultimissima segnalazione prima di lasciarci per il traffico, dal Corriere della Sera, scusatemi, un'intervista a Pietro Innocenti della Porsche, che annuncia Porsche elettrica, siamo pronti, investimenti oltre 1 miliardo, sfatando così appunto la convinzione che le auto elettriche possono essere solo quelle di bassa cilindrata o magari utilitarie. No, persino la Porsche potrebbe diventare elettrica, ma ci fermiamo a proposito di auto per il traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Per l'ultima parte della nostra rassegna stampa eravamo nelle pagine interne dei giornali e dalla Repubblica vi segnalo un bellissimo reportage di Pietro Del Re dal Sudafrica, dove è andato a vedere come vivono e soprattutto come lavorano i minatori delle miniere. Il titolo del reportage è Sudafrica con gli ultimi dannati delle miniere d'oro e il virgolettato: così rischiamo la vita 700 metri sottoterra. E si racconta come per pochi euro al giorno, l'equivalente di pochi euro al giorno, questi lavoratori, la maggior parte dei quali illegali, nel senso che non hanno né un contratto né tutele, soprattutto per appunto contro gli incidenti, lavorano in queste condizioni. Sempre da Repubblica un tema che forse ricorderete già in estate mi aveva appassionato, che è quello di questa crisi delle grandi compagnie che spostano i container da una parte all'altra del mondo. C'è stato il crack di questa gigantesca compagnia Hanjin, che era coreana, un colosso del settore, e ora ci sono container bloccati in tantissimi porti. E per esempio, se si esaminano quelli che erano destinati all'Italia, bloccati 10.000 container destinati all'Italia, fermi nei porti o sulle navi del colosso fallito merci, pensate, per 800 milioni. La crisi ha travolto anche la controllata italiana di Hanjin e sono a rischio circa 100 posti di lavoro, tutti a Genova. E avete sentito forse in Oltretevere l'approfondimento di Katia Caramelli sull'esorcismo. La Stampa, pagina 8 e 9, torna su questo argomento. Per un caso, appunto, anche la Stampa se ne è occupata oggi. In Italia, boom di richieste per liberarsi dal diavolo, ma mancano gli esorcisti. Pensate, 500.000 di richieste ogni anno. E il Vaticano, la posizione ufficiale del Vaticano, è: sono pochi quelli veri. Spesso Satana arriva con i riti magici. Ma visto che non abbiamo tantissimo tempo, poi se dopo la nostra rassegna dei supplementi culturali avanza qualche minuto, torniamo alle pagine interne dei quotidiani, però vi segnalo appunto i supplementi di oggi, cominciando dalla Domenica del Sole 24 Ore e dal Breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi è più bello del solito, se possibile. Si intitola Il Posto e la citazione è questa: non disprezzare nessuno e non ritenere strana nessuna cosa, perché non c'è nessuno che non abbia la sua ora e non c'è niente che non abbia il suo posto. Un'intuizione semplice eppure folgorante, questa che ci è offerta da uno dei detti dei padri conservati nella Mishnah, la grande raccolta di testi rabbinici redatta nei primi due secoli dell'era cristiana. Un'intuizione disattesa ripetutamente da tutti i popoli, spesso incapaci di rispettare l'altro, cioè la diversità, ignorando la bellezza della molteplicità voluta dal Creatore. Il libro biblico della Sapienza si rivolgeva a Dio così: tu ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato, perché se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure formata. Un altro aforisma giudaico affermava che gli uomini impiegano un unico conio e fanno monete tutte uguali. Dio usa un unico conio e fa le creature umane tutte diverse tra loro, pur nell'identica dignità naturale. Contro ogni meschinità razzista o superbia nazionalista o integralismo religioso o vanità intellettuale, adottiamo il motto di Spinoza: non desiderare mai le azioni umane, né compiangerle o detestarle, ma comprenderle. Credo che dovremmo imparare a memoria le parole della Mishnah o queste di Spinoza. Il titolo principale però del domenicale è La felicità che può avere luogo, e si riferisce al fatto che sono 500 anni dall'uscita dell'Utopia di Tommaso Moro e un mese dalla morte del filosofo Bronislav Backo, storia e futuro dell'idea di una società migliore. E il memorandum del nostro direttore, nostro del Sole 24 Ore di Radio 24, Roberto Napoletano, parte da due lettere arrivate da queste persone che hanno fatto questo viaggio in bicicletta 1000 chilometri pedalando dalla Romagna alla Calabria. E il titolo è I giovanotti della Romagna, il talento da riconquistare, perché era un po' un viaggio in Italia breve, magari più breve di quello che aveva fatto Guido Piovene, ma comunque appunto un viaggio in Italia in bicicletta fatto tra l'altro da persone che non sono più giovanissime, da qui appunto l'appellativo giovanotti, per portare la loro causa in giro per l'Italia, ma anche per vederla forse loro stessi, il nostro paese così lungo e stretto e così diverso da regione a regione. Sempre dal Sole 24 Ore vi segnalo questo articolo, secondo me molto divertente, di Ramin Bahrami, che è un grandissimo pianista e anche clavicembalista, che è titolato Suonate nelle scuole col punto esclamativo, perché Bahrami si immagina di essere Johann Sebastian Bach, che invita a suonare appunto nelle scuole, invita ad amare la musica. Vi leggo le ultime righe: l'augurio che faccio all'umanità, appunto come se stesse parlando Bach per bocca di Ramin Bahrami, è quello di recuperare la propria fantasia e la libertà, che nasce solo dove c'è il bello, e auguro a tutti di riscoprire il fuoco sacro per ritornare a risplendere con la musica, con la cultura, e solo in questo modo realizzare un mondo davvero armonioso e pacificato. E dalla lettura abbiamo visto le quattro pagine di conversazione tra Sandro Veronesi e Giovanotti, quelle che tanto poco sono piaciute ad Antonio Socci, ma io vi segnalo anche dalla pagina 11 un'intervista a Frank De Waal, che lo spunto è che è ospite del Festival Torino Spiritualità, che si terrà a Torino dal 28 settembre al 2 ottobre, e questo grandissimo etologo ha appena pubblicato un nuovo libro che si intitola Siamo così intelligenti da capire capire l'intelligenza degli animali? E secondo lui, tutto sommato, abbiamo la stessa mente, solo che appunto è difficile trovare un linguaggio comune. Lo studioso, ospite a Torino Spiritualità, invita ad allontanarci dall'ingenuo tentativo di trovare ciò che ci distingue. E torniamo al tema, tutto sommato, che abbiamo appena visto nelle parole immaginarie di Bach e in quelle di Gianfranco Ravasi, cioè di appunto cercare l'unità e non le differenze. E Anna Chiara Sacchi invece a pagina 29 sempre della lettura ci racconta in anteprima la mostra che ci sarà, che apre a Milano, ed è dedicata a tre grandissimi pittori giapponesi: Hokusai, Hiroshige e Utamaro. Hokusai naturalmente famosissimo per la sua onda, ma ci saranno appunto tantissimi altri i quadri esposti. La domenica, lo supplemento culturale della domenica in copertina ha un racconto che poi prosegue per altre tre pagine di Don Winslow, che è uno dei più grandi scrittori americani contemporanei, che racconta la vicenda di El Chapo, il trafficante di droga che è rinchiuso, è tornato a essere rinchiuso in una cella in Messico dopo, forse lo ricorderete, l'ultima sua evasione. Non era la prima, forse non sarà l'ultima, da un carcere di massima sicurezza, ma è stato ripreso. Della serie Straparlando, questa settimana l'intervista di Antonio Gnoli, corredata come sempre da una grande e bellissima illustrazione di Riccardo Mannelli, è a Giulio Giorello, filosofo della scienza. Vivo accanto a filosofia e matematica e non mi sono mai sentito solo, questo è il titolo dell'intervista. Ultima segnalazione, il supplemento macro del Messaggero, un'iniziativa bellissima, si chiama Tutti scienziati per una notte. Venerdì prossimo ci sarà questa serata intitolata Sharper, che è una sera dedicata ai ricercatori, con centinaia di eventi in tutta Europa, per provare finalmente il brivido di una scoperta in laboratorio. Era l'ultima segnalazione per oggi. Io ringrazio Filippo Aureggi in regia, e mandate messaggi se volete al 349 238 6666. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.